Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Se il consumatore abbassa il budget destinato all'abbigliamento ma non vuole rinunciare alla moda, il fast fashion risponde. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo sì di moda veloce ma tutta made in Italy. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione torniamo invece a parlare di bambini, obesità e merendine e per il focus sui trend di urban style, quando la città fa tendenza. Prima come sempre spazio alle notizie e curiosità di questa settimana. Dalla borsa super leggera in titanio a quella super lavorata con intarsi marocchini, fino alla borsa double face, pelle da una parte, versione da giorno, e raso dall'altra, versione da sera. Sono alcune delle proposte che si sono viste a Milano alla 96esima edizione di Mipel, il salone della pelletteria. Di fronte alla crisi, Zara sbarca sul web. A cominciare dall'autunno, il colosso spagnolo, oltre 4.400 negozi nel mondo, avvierà la vendita online in Spagna e in alcuni paesi europei, fra cui l'Italia. Finora la vendita sul web era limitata alla linea Zara Home, per complementi di arredo e biancheria. Una gru, un igloo, un aereo, una grotta. Sono le insolite location per gli hotel più pazzi del mondo offerti da Holiday Check, il portale di viaggi che ha stilato la classifica delle stanze d'albergo più insolite al mondo. Arrivano a Roma i Tourist Angels. In giro per la città a bordo di monopattini elettrici, maglietta rossa e logo SPQR saranno dei veri punti di informazione mobile per stranieri e non che visitano la città. Torna sul mercato in versione elettrica la Trabant, auto simbolo dell'era comunista e dell'ex Germania dell'Est. Comparsa sul mercato nel 1959, era uscita di produzione dopo la caduta del muro di Berlino. Un container navale trasformato in negozio. È la scelta di OVS Industry per presentare la nuova collezione Baby Angel by Elio Fiorucci. Fino al 1 ottobre il Temporary Store animerà Largo La Foppa, uno dei principali luoghi di ritrovo della movida milanese. Si terrà fino al 4 ottobre a Pesaro, al Centro Arti Visive Pescheria, la mostra del Vitra Design Museum, che raccoglie 100 riproduzioni miniaturizzate della storica collezione. Sono le sedie icona dell'epoca moderna, dalla Tonè ai modelli più conosciuti di Le Corbusier, fino ai designer dei giorni nostri. La borsa della spesa. Quando si dice fast fashion si pensa subito ai colossi stranieri come Zara ed H&M. Prezzo basso, assortimento veloce, distribuzione capillare. Forse in pochi sanno però che esiste un fast fashion tutto made in Italy, fatto dalle piccole e medie aziende italiane che come punto di forza ha la qualità del prodotto. È il cosiddetto pronto moda. Moda, velocità, creatività, qualità e prezzi contenuti. È il pronto moda made in Italy, uno dei pochi settori che la crisi non ha messo in ginocchio. Basta pensare che per quest'anno, mentre per il prêt-à-porter si prevede una caduta di ricavi di almeno il 6%, la moda pronta potrebbe salire del 5%. Se il consumatore abbassa il budget da spendere per l'abbigliamento senza rinunciare al buon gusto, il fast fashion risponde e non delocalizza. La riscossa parte dal Center Gross di Bologna, uno dei principali distretti del comparto, un'area di oltre 1 milione di metri quadrati, 480 PMI del pronto moda su 650 complessive, con un giro d'affari di circa 5 miliardi l'anno. Il distretto si è fatto promotore del primo Fast Fashion Festival. La crisi ci ha dato l'opportunità di un riconoscimento dopo 30 anni di lavoro, ci dice Adriano Aere, presidente di Center Gross. Questa crisi che è venuta, cioè, stranamente per noi è una cosa estremamente positiva. Perché? Perché siamo pronti di affrontare il mercato. E poi una cosa estremamente importante per noi è l'Italian Style. Moltissima gente negli anni passati diceva: ah, ma voi producete a Ferrara, voi producete Rovigo, Faenza, Forlì, a Reggio Emilia, a Bologna, ma i costi sono eccessivi, come potete fare voi a vivere? E allora noi rispondevamo: ma cerchiamo di fare quel che possiamo. Però nessuno ci batte nella velocità, perché se io faccio fare un prodotto e lo do di tipo il venerdì il tessuto, io il lunedì o il martedì ce l'ho già in casa pronto per la vendita. Se io invece lo faccio in Turchia in Cina, ma io perdo veramente la cognizione del colore, la cognizione della linea, la cognizione di tutto. Abbiamo diminuito i costi e soprattutto abbiamo fatto in maniera che il cliente venga a noi, il cliente svedese, il cliente americano, il cliente giapponese, il cliente russo e il cliente naturalmente italiano. Quando viene lì dice, da noi va il pantalone un po' più largo, vita alta, da noi va la camicia un po' più stretta, la donna bisogna fare un camicione così. Quindi una notizia che ti dà lo svedese, una notizia che ti dà lo spagnolo, una notizia che ti dà il giapponese, automaticamente tu che cosa fai? Raggruppi queste notizie e c'è l'uomo prodotto che le fa queste notizie e che dice bisogna fare questo perché me lo chiedono e lo mettiamo subito in produzione senza aver venduto un cavo. Quindi c'è un riscontro immediato fra la produzione, il fast fashion e la clientela finale. Una vetrina interessante anche per i grandi nomi della distribuzione, Stefano Beraldo, amministratore delegato di Coin. Il cliente cerca di trovare in un prodotto quelle componenti che questo fast fashion può effettivamente dargli. Cerca un'impresa seria che produca un capo di abbigliamento che tiene conto delle ultime tendenze, evidentemente non è il capofila dell'avanguardia della moda, ma è il capofila nel leggere quello che delle avanguardie della moda si sta trasformando in realtà, in bisogno, in qualcosa di gradito dal cliente. Il fast fashion si colloca sotto la Griff a cercare di tradurre in, come dire, volumi e moda democratica quello che la Griff, ai prezzi a cui è costretta dal suo modello di business, non può presentarsi. C'è sempre stato, ci sarà sempre ed è una realtà con la quale il cliente di ogni posto deve convivere. Siccome siamo in Italia e ne abbiamo tante aziende brave, intelligenti, capaci di fare belle cose, appropriamoci di questo vantaggio anche rispetto agli altri paesi. Cambiamo argomento, parliamo di bambini e obesità, un problema rispetto al quale gli allarmi si susseguono da tempo. Sul banco degli imputati, come risaputo, ci sono anche le merendine, ma ora grandi marche, insegne si stanno muovendo, ci dice il direttore di Markup Luigi Rubinelli. Molte industrie si stanno cimentando per produrre in modo diverso e rispettoso delle necessità del singolo e delle sue esigenze. Una su tutte, Galbusera, che della segmentazione ha fatto la sua bibbia produttiva. Anche le catene di distribuzione sembra abbiano capito che questa sia una strada da seguire e hanno lanciato recentemente nuove linee di prodotti e nuovi marchi per i bambini. Conad ha varato la linea di prodotti a marchio Kids. Primo fra tutti un tè deteinato al limone, ma anche cereali studiati appositamente, gelati senza coloranti e conservanti. Coop, dal canto suo, ha dapprima lanciato un system di nuove merendine a marchio Club 410, solo con aromi naturali. Il pack non è il massimo, ma il segnale al mercato e ai target destinatari è stato dato. È una piccola rivoluzione destinata a durare e ad allargarsi nel tempo ed è tanto più importante se si pensa al momento economico e finanziario che stiamo attraversando. Il palmarès dell'innovazione in questo settore spetta però all'inglese Waitrose, che nel sito online e anche nei negozi mette a disposizione delle mamme i suggerimenti di importanti nutrizionisti per fare una spesa e soprattutto piatti graditi ai più piccini e al loro fegato. E nuovo business responsabile che si impone. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, seconda parte come sempre dedicata all'analisi delle nuove tendenze in compagnia di Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Urban Style è il titolo della puntata di oggi in cui cercheremo di scoprire come i trend emergenti, i nuovi stili di vita, i nuovi comportamenti sociali introdotti dai social network e dalle nuove applicazioni, vogliamo nominarne una, la geolocalizzazione, stiano trasformando le nostre città. Città intorno alle quali nascono nuovi modi di viaggiare, giocare, fare sport, fare arte, socializzare e anche comunicare. Patrizia. Sì, oggi parliamo dello spazio urbano come spazio espressivo dal basso. Ci sono moltissime nuove forme creative di appropriazione spontanea degli spazi urbani che in questo modo diventano tra l'altro anche nuovi luoghi di aggregazione. Si va dagli urban games, i giochi urbani, alla street public art, l'arte di strada, quella fatta per strada, agli sport metropolitani come per esempio il polo giocato con le biciclette. Insomma, l'idea è di una ricerca di uno spazio aperto che si considera sempre più proprio, dove potersi divertire, esibire e anche allenare. Quindi moltissime città sono interessate dal fenomeno, per esempio, dell'urban exploration, detto anche urbex, cioè tutte quelle attività e modalità di esplorazione dei suoi spazi più o meno conosciuti. Vediamo qualche espressione interessante. Il parkour, dal francese percorso, ma si scrive con la K, è una specie di sport, ma è anche una filosofia di vita che fa molti proseliti soprattutto tra i giovanissimi di tutto il mondo. Infatti è più correttamente definita, autodefinita, una disciplina metropolitana. È l'arte dello spostamento, quindi consiste nel creare percorsi di attraversamento della città da seguire superando naturalmente in modo molto creativo e atletico gli ostacoli e le barriere con salti, cadute, arrampicate, corse, volteggi, insomma tutto quello che serve per seguire il percorso. È esploso da qualche anno grazie anche alle performance dei suoi praticanti che sono esteticamente molto affascinanti e infatti ha ispirato molti brand, da Honda a Red Bull, da Adidas a Vigorsol, ma anche il mondo del cinema, un film come Banlieue 13 di Besson, moltissimi video musicali e videogiochi, l'ultimo si chiama Prototype ed è proprio di quest'anno. Dalla superficie cittadina usata come palestra possiamo andare al sottosuolo con l'urban caving, cioè l'esplorazione di quelle zone pubbliche ma che sono off limits, quindi parliamo di reti fognarie, gallerie, scavi e anche cantieri, dove non si può andare se non autorizzati, e qui succedono delle vere e proprie infiltrazioni illegali, un po' da speleologi urbani, che a loro rischio e pericolo appunto vogliono entrare nelle viscere della loro città. Per tutti, quindi non solo per queste tribù o comunità molto ristrette, ci sono dei veri e propri tour artistici per strada. La città può diventare anche un museo gratuito a cielo aperto. C'è un caso bellissimo a San Pietroburgo e a Mosca, in cui le strade diventano dei veri spazi espositivi, temporanei certamente, per riproduzioni di grandi opere pittoriche. Quindi le opere del Museo di Stato Russo di San Pietroburgo e del Museo Pushkin di Mosca, in copia, in riproduzioni perfette, incorniciate con la didascalia, quindi riproducendo fedelmente il format museale, si trovano appese ai muri dei palazzi per strada. Accanto all'autore e al titolo si trova anche il telefono e il sito web, si possono ricevere più informazioni e anche scaricare l'immagine sul cellulare. L'obiettivo di questo progetto educativo e anche divulgativo e molto democratico è stimolare le persone, dopo aver visto queste copie, ad andare al museo, godersi gli originali e dare quindi un'occasione alla gente comune di inciampare letteralmente nella bellezza e nell'emozione dell'arte per strada. Intorno alla città ruota il più popolare gioco da tavola al mondo, il Monopoly. 100 anni per 200 milioni di scatole vendute, 1700 versioni pubblicate in 100 paesi, 37 lingue diverse, insomma non è certo una novità. La novità è che ora incontra le mappe di Google e diventa globale. Da Via del Corso a Roma alla Fifth Avenue di Manhattan, passando per Century Square a Shanghai. Il tabellone del Monopoly si trasferisce online, incontra Google Earth e Street View e diventa Monopoly City Streets. Disponibile al momento solo in inglese, francese, spagnolo, tedesco e olandese. Sul web da qualche giorno in fase sperimentale è stato letteralmente preso d'assalto. Una volta registrati e scelti via e città per posizionarsi, si ricevono 3 milioni di dollari virtuali da spendere in speculazioni edilizie. Si può costruire ovunque, uniche eccezioni Israele e Corea del Nord. Nel frattempo, per i nostalgici, in Italia arriva la versione d'antan firmata Hasbro. Las Vegas si prepara per il campionato mondiale e Ridley Scott promette un film. Patrizia, una bella interazione questa fra realtà e virtualità. Sì, il tema questo dell'online, dell'offline, del reale, del virtuale riferito alle interazioni tra le persone nei contesti urbani è un tema densissimo di potenzialità. Già oggi le città potrebbero ricalcare il modello di internet basato su apertura, partecipazione, generazione di contenuti dal basso, evoluzione rapida e organica. La tecnologia, il web, è un modello che può favorire molto la partecipazione perché rende più facile e più veloce condividere progetti, idee per reinventare le città prossime e future. E quello che fa per esempio doityourselfcity.org, questa comunità di 55 città del mondo, piccole, medie e grandi, che ha un obiettivo ambiziosissimo, cioè creare le condizioni per progettare dal basso, quindi con gli user delle città, l'evoluzione dei loro spazi. Quindi secondo alcune semplici ma molto sfidanti premesse, appunto i cittadini sono i veri proprietari della città e si vogliono impegnare responsabilmente nella gestione del loro territorio urbano. Bisogna solo trovare un modo per far dialogare le amministrazioni con i cittadini. E quello che fa in altro modo anche Critical City, sottotitolo Libera il gioco, conquista la città, un social network che è anche un gioco online e offline, è diventato già un cult, che appunto facilita la propositività, la progettualità delle persone che possono condividere e lanciare progetti creativi per il territorio, per cambiare il territorio. Quindi un gioco che in realtà è trasformativo e in chiave di cambiamento proprio fisico anche delle zone della città. C'è una grande voglia di esserci, di metterci la faccia, di metterci le idee, quindi le persone che vivono nei contesti urbani vogliono intervenire sulla città e cambiarla, usarla quantomeno in modi inusuali, lasciarci dei segni, delle tracce più o meno definitivi, eccetera. Quindi che lo si faccia direttamente in strada, senza passare dal web o sostenuti da un social network, in sintesi alla domanda di chi è la città abbiamo sempre più voglia di poter rispondere è mia. A volte bastano anche dei gesti minimi. Voglio chiudere con questo esempio bellissimo da New York. Una zona di Times Square in primavera è diventata una sorta di solarium con tanto di sdraio, chiusa al traffico, in cui le persone si stendevano a leggere, a riposare, a guardare il traffico intorno. Questa iniziativa, anche un po' bizzarra se vogliamo, è stata molto apprezzata dai pedoni newyorkesi, che evidentemente ne hanno colto anche la grande portata simbolica. Queste non sono azioni contro le automobili, contro qualcosa, ma un modo soft, ma molto assertivo, per riprendersi per un po' quello che si era smesso di considerare spazio pubblico e quindi anche proprio. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Mosca su Urban Style e dintorni? Questo è il momento delle nostre esperte di MEMI, laboratorio di trend watching internazionale. Alessia Zampano, bentornata. Grazie, buongiorno. Per le strade di Mosca e in particolare in Arbat Street, ormai da 4 anni a questa parte si celebra un rito tanto anticonvenzionale quanto regressivo. Le persone si ritrovano il primo weekend di aprile nella strada pedonale al centro della capitale e la percorrono da capo a piedi facendo bolle di sapone. In origine si trattò di un flash mob. Sappiamo che il flash mob è una riunione improvvisata di un gruppo di persone che insieme fanno un'azione, un gesto di nonsense e immediatamente si disperdono. Ma il successo è stato talmente tale che da evento clandestino, qual è di fatto il flash mob, si è trasformato in un party urbano all'aria aperta, cioè un appuntamento ufficiale, tanto da essere replicato in molte altre città dell'Est Europa, che con il ritardo dovuto al clima notoriamente inclemente di quelle zone saluta l'approssimarsi della primavera. L'affluenza è sempre numerosissima e l'intera strada si ricopre di bolle di sapone e persone di ogni età si radunano volutamente abbigliate in modo giocoso e colorato per contribuire a creare un clima di festa e di celebrazione gioiosa della vita. È un modo semplice e a buon mercato, tra l'altro il flacconcino per fare le bolle in vendita in ogni chioschetto della città, per mettere in scena un momento, seppur fugace, di sogno, di magia collettiva, capace di restituire con poco, poi con un impegno minimo, un'ondata di emozioni positive che nascono anche dalla riappropriazione in chiave ludica dello spazio urbano. Grazie Alessia. Patrizia, in conclusione ti chiedo come sempre di riassumere in una frase o in pochi concetti lo spirito di questa tendenza. Sì, riprendo un aggettivo detto adesso da Alessia che è positivo, quindi voglio sottolineare che questa voglia diffusa di riprendersi o reinventarsi reinventarsi la città è di segno positivo, cioè si genera dalla creatività, dall'energia delle persone che certamente anche mettono in discussione la convenzionale separazione tra pubblico e privato, e quindi c'è anche un messaggio politico, ma in chiave appunto positiva, molto progettuale. Essere avere @radio24.it, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti. Vi do appuntamento a domenica prossima dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.